Ad alta voce, Elia Shilton legge Le linee d'ombra, dal libro The Shadow of Lines di Amitav Ghosh, copyright 1988, tutti i diritti riservati. Traduzione di Anna Natotti. Sesta puntata. Una volta Tridib mi aveva mostrato delle fotografie di quella stanza. Poco tempo dopo che lui e i suoi genitori si erano stabiliti al 44 di Lymington Road nel 1939, Mrs. Price aveva invitato a un tè suo fratello Alan e i tre amici con i quali divideva una casa in Brick Lane. Il Shaheb era ancora in piedi, sarebbe stato operato il mese dopo. Aveva comprato da poco una macchina fotografica e quel pomeriggio aveva scattato un gran numero di fotografie. C'è qualcosa di straordinariamente diverso nelle fotografie di quell'epoca. Non ha nulla a che vedere con l'età o il colore o la grana della carta. May lo notò tutto a un tratto una volta che Tridib ci condusse in camera sua e ci mostrò il suo vecchio album. «Non è il fatto che siano scolorite», disse indicando una foto dei suoi genitori, «è il modo in cui la macchina fotografica coglieva le persone a quell'epoca. Nelle famiglie di oggi la macchina fotografica circola come un amico e scatta proprio in quei momenti in cui i soggetti si sono rilassati in modo da presentarsi in atteggiamenti che ritengono casuali. Nelle fotografie del passato, invece, la macchina fotografica è ancora un occhio pubblico ed estraneo di fronte al quale la gente si sente costretta o a sfidare l'intruso con un'aria disinvolta di ilarità oppure a controllare l'espressione del viso e a tenere le spalle erette, non sempre in modo formale, ma di solito con quel pizzico di rigidità sufficiente a suggerire l'idea dell'immagine pubblica. Ad esempio, sullo sfondo di una di quelle fotografie c'è un grosso buco profondo. Sono due settimane che Snipe scava quel buco in fondo al giardino. Dovrebbe diventare un rifugio antiaereo, la sua seconda linea di difesa contro le bombe tedesche in arrivo. Snipe è l'ultimo a destra. Indossa una logora giacca di velluto a coste e una cravatta di lana piuttosto di sghimbescio. Non è un uomo robusto, ma ha spalle larghe che non riesce a sostenere bene. Sta leggermente curvo, con la testa inclinata verso la macchina, così che la luce cade proprio sul cerchio calvo al centro della nuca. Alla destra di Snipe c'è un giovanotto alto, con un viso magro, che strizza gli occhi dietro uno spesso paio di lenti. È Dan. Porta un berretto di panno, uno sbiadito maglione di Fair Isle e una lunga sciarpa avvolta intorno al collo. Dalla tasca della giacca spunta un giornale arrotolato. Fu proprio il giornale la prima cosa che Tridib notò quando Mrs. Price lo presentò a Dan, e mentre Dan veniva presentato a Maya Debbie, non seppe resistere, si sollevò in punta di piedi e glielo sfilò dalla tasca. Maya Debbie se ne accorse e sottovoce lo rimproverò seccamente. Dan la sentì, la sua faccia pallida si fece di fuoco e, balbettando per l'imbarazzo, disse qualcosa come «è soltanto un giornale, ha fatto bene!» Lo tolse lui stesso dalla tasca e lo porse a Tridib. Tridib gli diede una lunga occhiata e chiese se era il News Chronicle. Dan scosse la testa in segno di scusa e diventò ancora più rosso. «Ma allora», aveva chiesto Tridib, «se non è il News Chronicle, che giornale è?» Succedeva spesso che Tridib corresse in West End Lane a comprare i giornali per suo padre, così aveva acquistato familiarità con quelli che vedeva sul banco dell'edicola. I suoi preferiti erano lo Sphere e il Picture Post, ma gli piaceva anche il News Chronicle, soprattutto per le immagini. Dan rispose che si trattava del Daily Worker e Tridib perse interesse e glielo restituì. Non aveva mai visto né sentito parlare di un giornale che si chiamasse così. Perché invece non leggeva lo Sphere? Chiese ancora a Dan. Dan rispose che lo leggeva qualche volta, seppure non spesso. Quanto al Daily Worker, non lo leggeva, semplicemente ci lavorava. La cosa impressionò Tridib. Infatti, anche se non ne aveva mai sentito parlare, era pur sempre un giornale stampato come qualsiasi altro giornale e c'erano anche delle fotografie. Fece un passo indietro, osservò a lungo Dan, poi gli chiese se intendeva dire che scriveva per quel giornale. Non aveva mai incontrato nessuno che scrivesse su un giornale. Proprio così, gli rispose Dan, arruffandogli i capelli. Allora, naturalmente, Tridib gli chiese di quali argomenti scrivesse e Dan, arruffandogli di nuovo i capelli, fece la faccia scura e rispose che scriveva di sindacati, di scioperi e così via. Tridib provò un certo imbarazzo, dovendo ammettere che ci fossero tante cose di cui non aveva mai sentito parlare, tutte in una sola sera, ma era curioso, perciò mise da parte il suo orgoglio e chiese che cosa fosse un sindacato. Al che Dan si accucciò accanto a lui, la testa all'altezza di quella di Tridib, e rimase a lungo pensieroso. Tuttavia, prima che Dan potesse rispondere, Mrs. Price allontanò Tridib e gli diede un piatto con una fetta di torta. Più tardi lui sentì che diceva a Dan con un sorriso di complicità: fa sempre domande terribili. E fu soddisfatto di sé per il resto della serata. Aveva fatto una domanda così intelligente da mettere in difficoltà un uomo che scriveva su un giornale. Molto tempo dopo, Tridib scoprì che Dan era stato una figura di un certo rilievo nella sinistra trotskista. Era figlio di un eminente fisico di Cambridge, si era laureato in chimica e poi aveva continuato gli studi alla London School of Economics. In seguito aveva lavorato per un po' come giornalista per vari fogli della sinistra, ma ben presto se n'era andato a combattere per la Spagna durante la guerra civile. Si era guadagnato un'onorevole ferita e aveva fatto ritorno in Inghilterra, dove aveva collaborato alla stesura di un paio di pamphlet di grande successo, dedicati soprattutto al nazismo. Tridib non dubitò mai che Dan fosse il mentore politico di Trishosen. Nella fotografia c'è un giovanotto disteso ai loro piedi. La testa appoggiata a una mano ride davanti all'obiettivo con aria spavalda. Ha un viso massiccio, con guance prominenti e capelli ricci, il tipo di viso che si accompagna a un corpo robusto, tarchiato. Il suo gomito piegato poggia pesantemente sulle scarpe di Trishosen, ma Trishosen lo ignora. Questo è Mike. Al loro arrivo, Mike era in uno stato di cordiale, turbolenta ubriachezza, gli occhi annebbiati, le guance rosee. Per Tridib puzzava di birra rancida, aveva lo stesso odore che filtrava dalle porte dei pub di Finchley Road. Era infagottato in un soprabito logoro con un sudicio berretto di panno. Quando parlava, Tridib aveva difficoltà a capirlo e Mrs. Price gli spiegò che era per via del forte accento irlandese di Mike. Mike manifestò un'immediata antipatia per il Shaheb. Durante le presentazioni sbirciò maliziosamente la sua giacca di tweed e la cravatta a righe, poi, dopo un inchino esagerato, disse: Dunque, da dove vieni? Il Shaheb si sistemò nervosamente la cravatta e rispose: Sono indiano. Chiudendo uno dei suoi occhi annebbiati e squadrandolo dall'alto in basso, Mike disse: Non mi sembri un indiano. Hai già ucciso qualche inglese? Il Shaheb arretrò scuotendo la testa inorridito. Tridib si mise a ridacchiare. E allora che indiano sei? Disse ancora Mike, avanzando di un passo. A quel punto Trisosen si mise tra loro e trascinò via Mike. Trisosen è al centro della fotografia, in piedi, perfettamente diritto. Essendo altissimo, troneggia su tutti gli altri. Ha un viso lungo, uno sguardo diretto e profondo, un ventaglio sottile di rughe agli angoli degli occhi e della bocca. Ha solo 28 anni, ma sembra aver già raggiunto quell'età indefinibile che si può collocare indifferentemente tra l'inizio e la fine della mezza età. La manica destra della giacca pende lungo il fianco in modo tale che riesce difficile pensare che ci sia qualcosa che non va nel suo braccio. In realtà, le ossa di quel braccio sono quasi tutte di metallo e riesce appena a usarlo. Ha sempre sostenuto di essersi ferito in un incidente con la sua motocicletta, ma Mrs. Price non gli crede o comunque ritiene che ci sia stato qualcosa di più. Ne aveva avuto notizia, per la prima volta, da una lettera giunta dalla Francia, nella quale la si informava dell'incidente e le si diceva che suo fratello era in un ospedale a Verdun e che era ferito gravemente a un braccio, ma che non doveva preoccuparsi perché i medici assicuravano che sarebbe guarito. La lettera era firmata Francesca Halévy e il segno del 7 nella data era stato sbarrato nel mezzo. Non sapeva che cosa pensare. Lo credeva a Stoccarda, a insegnare inglese, ma aveva letto che c'erano stati dei disordini laggiù e ora eccolo dall'altra parte del confine, per di più in una città in cui il solo nome suggeriva le peggiori associazioni a qualunque persona della sua generazione, in un ospedale assistito con ogni probabilità da una donna che doveva essere ebrea e tedesca. Tuttavia, quando si era offerta di andare laggiù, la sua corrispondente le aveva risposto a giro di posta dicendo che non era necessario, si occupava lei stessa di Alan e presto si sarebbe rimesso. Invece, quando era tornato in Inghilterra un mese più tardi, tutto sembrava tranne che star bene. Lo aveva pregato di restare a Hampstead per un po', così lo avrebbe curato lei, ma era rimasto soltanto una settimana e poi si era trasferito a Brick Lane. Una volta gli aveva chiesto che cosa fosse successo e lui le aveva dato una risposta stranamente evasiva, farfugliando qualcosa su una motocicletta che aveva sbandato di notte. Mrs. Price, piena di rimorsi per non essere andata a trovarlo in Francia, sentì di aver perso il diritto di insistere per avere una risposta più esauriente. Con suo sollievo, però, quando lo rivide, sembrava allegro. I suoi amici lo avevano presentato a un tale di nome Victor Gollans, un editore che dirigeva un club, il Left Book Club. Gli aveva offerto di lavorare con lui alla redazione del notiziario del club. Quando era stata scattata quella foto, lavorava ancora al Left Book Club nell'ufficio di Henrietta Street dietro il Covent Garden. Ma quando scoppiò la guerra e l'ufficio si trasferì a Berkshire, si licenziò e rimase a Londra, guadagnandosi qualche soldo scrivendo per il Tribune e l'Observer e dando saltuariamente una mano al Socialist Bookshop di St. Bright Street vicino a Holborn. Francesca Halévy è in piedi tra Dan e Trisosen. È magra e alta, con i capelli scuri e un volto meravigliosamente triste, aquilino. Tiene un braccio sulle spalle di Dan mentre solleva l'altro inarcandolo sopra la testa come una ballerina. Indossa una gonna nera lunga e una giacca attillata in vita. Maya Debbie e Mrs. Price, in piedi ai lati del gruppo, la osservano intensamente, intimorite dalla sua eleganza. Mrs. Price si confidava spesso con Maya Debbie riguardo a Francesca. Sa che Francesca condivide con i tre uomini la casa di Brick Lane, ma ciò che la preoccupa, per dirla come lei, è che non riesce a sapere con quale di loro stia effettivamente Francesca. C'è un'altra loro fotografia scattata in salotto, è quella che 3D preferisce. Francesca è seduta in poltrona e Mike e Dan sono appollaiati sui braccioli. Si sono mossi tutti e tre e le loro facce sono soltanto delle macchie nella fotografia. Ridono, forse per l'insistenza del Shaheb nel fotografarli. Alle loro spalle, in piedi, ci sono Mrs. Price e Maya Debbie e in mezzo a loro Ellen Trisosen con la sua statura soverchiante. Mrs. Price tiene tra le braccia May, un fagottino bianco. Si china a guardarla e sorride orgogliosa, con i capelli raccolti sul capo in un ricciolo biondo. Dalla sua altezza, Trisosen osserva Maya Debbie. Sembra gentile e sorpreso. Proprio in quell'attimo il Shaheb scattò la fotografia. Maya Debbie sorride timidamente con gli occhi rivolti in su verso Trisosen. Il sari le è scivolato dal capo. Anche se ha la stessa età di Alan ed è madre di due bambini, dimostra la metà dei suoi anni. Lo sguardo chiaro e innocente, luminosamente bella. È la fotografia prediletta di 3D. Gli piace l'espressione interrogativa, leggermente perplessa, sul viso di Trisosen. Gli piace il modo in cui Maya Debbie sorride alzando gli occhi verso di lui. Quando ricostruisce le avventure del suo eroe, Trisosen, le conclude sempre così, con lui che guarda Maya Debbie con quell'espressione e lei che alza gli occhi e gli sorride. La stanza in cui mi condusse Mrs. Price era ampia, spaziosa e zeppa di mobili. Sofà, sedie e poltrone delicate con gambe sottili e schienale ricurvo. Una chaise longue, piccoli tavoli su base a zampa di ragno. Ogni superficie utile era ingombra di oggetti. Alti vasi cinesi blu, piccoli piatti di porcellana bordati d'oro a disegni floreali. Ciotole colme fino all'orlo di petali di rosa, orologi di bronzo dorato e fotografie in cornici d'argento. Le pareti erano letteralmente coperte di acquarelli, xilografie e disegni botanici. Mrs. Price notò che mi guardavo intorno stupito e mi confessò con aria colpevole, come se mi stesse rivelando un vizio, di essere una frequentatrice di aste di beneficenza e che quella che vedevo era soltanto una parte della collezione di tutta una vita. Ayla disse, se non altro questa stanza è una sorpresa, non è vero? Sì, lo è, riconobbi. Allora Nick mi chiese sorridendo se pensavo di sapermi orientare nella casa come avevo fatto in strada. Dovetti riflettere un momento prima di riuscirci. Mi voltai verso la porta e dissi, correggetemi se sbaglio, ma credo che uscendo da questa porta, girando a destra e proseguendo dritto per qualche passo, arriverei in cucina. Se invece girassi a destra prima di arrivare in cucina, mi troverei proprio di fronte a una rampa di scale che mi porterebbe nello scantinato. Adesso era il mio turno di ridere, guardando le loro facce stupefatte. È incredibile, disse Ayla, scuotendo la testa. Come fa? Invece, naturalmente, era stata proprio lei a mostrarmi tutto. Mi aveva preso per mano e trascinato sotto la tavola, e dopo che mi ero seduto vicino a lei, aveva tracciato una riga nella polvere e aveva detto: Ora stammi a sentire, quella è la strada e quello laggiù è il campo da cricket. Poi, delimitando un quadratino impolverato, aveva proseguito: Questo è il giardino con il ciliegio ed ecco la porta d'ingresso. Quando avrai suonato e ti sarai pulito le scarpe nello stuoino, potrai entrare in casa. Disegnò un rettangolo lungo e stretto sul quale si apriva la porta d'ingresso. Questo è il corridoio, aggiunse un altro grande rettangolo a sinistra. Questo è il salotto, a grandi finestre come questa che si affacciano sul giardino. Da quella porta puoi passare in sala da pranzo e da lì in cucina, dritto davanti a te. Infine, laggiù sul retro, c'è il giardino della cucina. Mentre fissavo il reticolo di linee, lei mi girò intorno, si mise alla mia destra e disegnò un'altra stanza, più piccola questa volta. Questa è la camera in cui viviamo io e la mamma. È la prima a destra entrando. Aggiunse un paio di linee. Quella è la scala e quello è lo scantinato dove io e Nick facciamo il gioco delle case. Ma perché non giocate qui in salotto o in giardino oppure laggiù sul campo da cricket? Non si può fare il gioco delle case fuori in giardino. Deve essere un luogo piuttosto buio e segreto. Di nuovo mi girò intorno, attraversando l'ingresso e il salotto. Si accovacciò per terra e disegnò un sottile rettangolo vicino alla parete del salotto. Questa è la scala. Devi salire da lì per andare nelle camere da letto. Stai mentendo, gridai. Quella non può essere una scala perché è piatta. Le scale vanno verso l'alto, non sono orizzontali. E quella stanza non può essere di sopra perché il piano di sopra deve essere in alto e quello non lo è. È proprio accanto al salotto. Mi inginocchiai e cominciai a scarabocchiare nella polvere, cancellando le linee e urlando. Stai mentendo, sei pazza. Questa non può essere una casa. Mi appoggiò le mani sul petto e mi spinse. Non era molto robusta, ma riuscì a farmi cadere all'indietro sulle caviglie. Sei uno stupido, non capisci? Ho fatto solo uno schizzo. Se immaginiamo che sia una casa, sarà una casa. Possiamo decidere di costruire una casa dovunque vogliamo. No! Gridai. Non sarebbe una vera casa, è impossibile. E perché? Chiese sorridendo. Stizzito scompigliai lo schema tracciato nella polvere. Non può essere una vera casa, dissi alla fine, perché non c'è una veranda. Two lovers sat on a park bench with their bodies touching each other, holding hands in the moonlight. There was silence between them. So profound was their love for each other, they needed no words to express it. And so they sat in silence on a park bench, with their bodies touching, holding hands in the moonlight. Finally, she spoke. Do you love me, John? She asked. You know I love you, darling, he replied. I love you more than tongue can tell. You are the light of my life. My sun, moon, and stars. You are my everything. Without you, I have no reason for being. Again, there was silence as the two lovers sat on a park bench, their bodies touching, holding hands in the moonlight. Once more she spoke. How much do you love me, John? She asked. He answered. How much do I love you? Count the stars in the sky. Measure the waters of the oceans with a teaspoon. the grains of sand on the seashore. Impossible, you say? Era la voce di Elia Shilton per la lettura delle linee d'ombra di Amitavh Ghosh, scelto per voi dalla redazione di Ad Alta Voce, un programma a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. La traduzione scelta per voi è quella di Anna Nadotti, utilizzata da Neri Pozza. Insomma, era la sesta puntata, le puntate precedenti come sempre potete riascoltarle sul sito raiplayradio.it e anche attraverso la nuova app scaricabile sui vostri device. Le puntate precedenti di questo ciclo, ma chiaramente anche gli interi cicli precedenti di Ad Alta Voce, una libreria di libri letti ad alta voce in italiano gratuita, che è la più grande appunto a disposizione gratuitamente per voi sul nostro sito.